Storiacce di Raffaella Calandra. In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Rito, dichiara Schettino Francesco colpevole dei reati a lui ascritti. Lo condanna alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e mesi 1 di arresto. Signor Presidente, signori giudici, quello che oggi sento di dire è che probabilmente non è stato compreso che quel 13 gennaio sono in parte morto anche io. È lui dunque il responsabile di quei 32 morti e di 5 milioni di danni. È lui con il suo comportamento il colpevole del peggior naufragio degli ultimi tempi, il 13 gennaio 2012. Il Tribunale di Grosseto condanna a 16 anni, come sapete, l'ex comandante della Concordia per tutti i reati, ma riduce di 10 anni le richieste della Procura e nega l'arresto immediato. Non c'è il pericolo di fuga. Cala dunque almeno per ora il sipario su una delle vicende più drammatiche e incredibili, con un verdetto che divide e che per alcuni non fa fino in fondo chiarezza su quello che è successo effettivamente una notte d'inverno davanti all'isola del Giglio. Da lì allora, dalla punta della Gabbianara, dove la Concordia è andata a morire, parte questa nuova puntata di Storiacce. Per scriverci la pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter l'account è @RaffCalandra. Il dolore, a mio avviso, non va esibito per strumentalizzarlo. Alla fine mi vedo costretto a raccontare momenti intimi e dolorosi che ho condiviso con alcuni naufraghi a casa mia. Non si dovevano permettere questo, io qua non lo volevo fare. Va bene così. Persa ogni esuberanza, alla fine piange il comandante senza più nave. Piange lacrime di condannato, quando forse per la prima volta si rende conto della gravità dei suoi gesti e forse delle conseguenze anche. Piange il suo destino, che non è più di colui che è secondo solo a Dio, come Contracotanza aveva detto un giorno, ma che davanti, in quel momento, poteva avere anche un arresto immediato richiesto dalla procura e una condanna a ben 26 anni. Ma per quell'incauto idiota, per dirla con la definizione del PM, il tribunale stabilisce invece una pena di 16 anni e nega il carcere immediato. Condannato per la morte di 32 persone eppure non va in carcere? In tanti se lo chiedono. La Corte ha stabilito che non c'è il pericolo di fuga, ma i primi a non essere d'accordo con questo verdetto sono proprio i pubblici ministeri. Perché anche se Schettino è stato condannato per tutti e quattro i reati, le pene sono inadeguate, secondo l'ex procuratore capo di Grosseto, Francesco Verusio, colui che ha coordinato tutte le indagini. Sinceramente mi aspettavo una valutazione da parte dei giudici non costituite. Per quanto riguarda il naufragio è prevista una pena fino a 10 anni, noi ne hanno dati solo 5, ma un naufragio di una nave, un transatlantico di 300 metri con 4.000 persone sopra, cioè 10 anni quando si danno allora? Perché secondo lei? Forse perché hanno considerato il concorso, cioè Schettino, come non unico responsabile? Che Schettino non sia l'unico responsabile è un fatto pacifico, perché anche gli altri ufficiali che erano in coperta sono stati sanzionati e hanno patteggiato. La misura di queste pene, che mi sembrano veramente non adeguate alla gravità del fatto, ecco. E soprattutto sul punto della pena stabilita per il naufragio, quella che voi contestate? Per quanto riguarda gli omicidi colposi abbiamo proposto qui 14 anni e sono stati riconosciuti 10. 10 anni per con 32 morti mi sembrano inadeguati. Certo, lei dice la responsabilità del comandante erano maggiore. Era lui che ha assunto il comando, era lui che ordinava al timoniere le manovre da fare, era lui che si era impegnato con il maître di fare Chievoli accostata azzardata al Giglio per fare un saluto ai parenti di questa persona. Praticamente conduceva questa nave, questo transatlantico, come fosse una barchetta qualunque, a vista, di notte. Love, exciting and new. Far vedere all'isola del Giglio quel villaggio vacanze galleggiante che era la Concordia. Tutto partì da lì, dal desiderio di fare un omaggio al maître di bordo Antonello Tievoli, a lui e al vecchio comandante Mario Palumbo, e quello che in gergo si chiama inchino, e che dopo il naufragio della Concordia è stato vietato al di là di certi confini. A casa dei genitori di Tievoli noi ci eravamo andati subito dopo il disastro, e da lì lo scoglio delle scuole, quello scoglio che non doveva esserci, ripeteva Schettino, quello scoglio che a suo dire non era segnato sulle carte nautiche, ma che pure le cartoline turistiche invece riportano, si tocca quasi con un dito da casa Tievoli. E già quella sera il papà del maître, avvisato dell'inchino imminente, si era reso conto che la nave forse stava troppo in terra, come dicono loro. Ogni partenza da Civitavecchia avvisa, stasera passiamo alle 9. Ecco, e vi aveva detto quindi più o meno a che ora sarebbero passati? Le 9:30 mi sembra, perciò noi eravamo qui alla finestra e sì, abbiamo visto qui fuori, un pochino più in terra, ormai era già accaduto il guaio. Cioè voi eravate qui per aspettare la nave che si avvicinasse? L'abbiamo vista, però camminava piano, perché le scuole, lo scoglio delle scuole, da qui saranno 500 metri. Voi quando avete visto la nave vi era sembrata già più vicina del solito? Un pochino sì, dico, ma a me mi sembra un po' in terra, detto in stile gigliese, no? In terra, fuori, eccetera, mi sembra. Quando passano quelle navi lì è uno spettacolo dall'illuminazione. Era una abbastanza frequente che, appunto, come lei diceva, che le navi si avvicinasse per fargli vedere le isole? No, leggermente avvicinarsi. Tutte le navi 20-30 anni fa, no, quando qui il porto l'80% facevano marinai, e quando passavano fischiavano, se era l'estate quelle barche andavano sotto, si avvicinavano. Secondo lei si sono avvicinati troppo? E prendessero gli scogli, è evidente. Se tutto partì da lì, da un errore aggravato da una manovra suicida, secondo gli inquirenti, furono però le fasi successive allo scontro a provocare davvero il disastro, costato la vita a 32 persone, compresa una bimba, la piccola Diana. È stato il suo comportamento allora a fare del naufragio della Concordia una delle peggiori sciagure del mare, ed è stato, a detta dell'ex procuratore Verusio, la sua condotta successiva, la sua esuberanza sfociata in arroganza o per alcuni pure in tracotanza, ad aver danneggiato anche la sua sorte giudiziaria. Sentiamo perché. Guardi, quella dell'abbandono della nave è un fatto più morale che fattuale. Certo è che se il comandante fosse rimasto sulla nave, si fosse dedicato a gestire quei momenti di emergenza, dando gli ordini che dovevano essere dati e che nessuno ha dato, provocando così un panico generale, probabilmente tante morti forse si sarebbero anche potute evitare. Sì. Quanto ha inciso nella richiesta di condanna che era stata avanzata dalla procura l'atteggiamento del comandante? Per quanto ci riguarda, certamente il comandante Schettino, che sarà stato anche un bravo comandante, non avrà voluto portare la nave su quello scoglio, però una volta che ha fatto questa sciocchezza, ammettere le sue responsabilità, chiedere scusa perché ha fatto veramente una sciocchezza, probabilmente Schettino avrebbe potuto definire la sua vicenda giudiziaria con un giudizio abbreviato che gli avrebbe consentito anche di avere degli sconti di pena. Le attività di indagine che noi avevamo fatto non consentiva di prevedere alcun esito diverso da quello che poi c'è stato, cioè dalla condanna. Quelle che sono state le responsabilità accertate erano talmente evidenti, una diversa strategia processuale gli avrebbe consentito un esito sicuramente molto più favorevole a lui. Solo in extremis, quando nel Teatro Moderno di Grosseto, diventato aula di tribunale per un caso seguito in mondovisione, Schettino prova a dare un'immagine diversa di sé, il condannato perfetto, come è stato più volte definito, allora prova a spiegare, a giustificare, fino a commuoversi. È stato detto che non mi sono assunto le mie responsabilità, circostanza non vera, come risulta dagli atti. La pubblica accusa mi ha attribuito una mancanza di sensibilità nei confronti delle vittime per non aver chiesto pubblicamente scusa, altra circostanza non vera. Cospargersi il capo di cenere, espressione utilizzata dalla procura, è un modo per esibire pubblicamente i propri sentimenti, scelta che io non ho fatto, ripetendo più volte che il dolore, a mio avviso, non va esibito per strumentalizzarlo. Lacrime di condannato, abbiamo detto. Ma davvero quel naufragio al Giglio è stato solo colpa del condannato perfetto? In realtà, anche se sono subito usciti dal processo e quindi anche dalla ribalta mediatica, altre 5 persone hanno patteggiato la loro colpa per quel naufragio e la stessa Costa Crociere è stata condannata insieme all'ex comandante Schettino a pagare in solido circa 7 milioni di risarcimento. E allora? Anche Costa quindi ha avuto delle responsabilità? Anche qualcosa sulla nave non ha funzionato quella notte? Storiacce. La possibilità che l'imputato Schettino Francesco, a seguito della grave pena a lui inflitta, possa decidere di darsi alla fuga è in astratto ammissibile, così come è genericamente possibile che un qualsiasi imputato, condannato severamente in primo grado, sia tentato di sottrarsi alla giustizia. La stessa possibilità, tuttavia, non ha maggiore consistenza di quella esattamente opposta che egli decida di continuare a difendersi nel processo anche davanti al giudice dell'impugnazione. E poiché la normativa vigente ai fini dell'applicazione della misura cautelare richiede necessariamente che il pericolo di fuga non sia soltanto in astratto possibile, ma concreto, l'istanza cautelare avanzata alla pubblica accusa non può essere accolta. Francesco Schettino non scappa, non c'è questo pericolo, hanno stabilito i giudici, per questo non va arrestato subito, come invece chiedeva la procura e come in tanti si sarebbero forse aspettati. Lo pensate anche voi? Scriveteci la vostra opinione sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter, ci trovate all'account @RafCalandra. Ora tra i familiari delle vittime qualcuno protesta, qualche altro come Kevin Rebello, il fratello del cuoco, ultimo recuperato dalla pancia della nave, dice invece rassegnato che questa è l'Italia. Siamo in Italia, purtroppo così devono andare a indagare. Tra una settimana, 8 giorni, io parto in India con il ferito del mio fratello. L'unica priorità era di trovare mio fratello e dargli una degna sepoltura nel mio paese, per me finisce lì. 3 anni dopo il naufragio, quando anche l'ultima delle 32 vittime riceve finalmente sepoltura, molte cose sono cambiate anche nei sistemi di navigazione. Altre norme sono state introdotte, come lo stesso ex comandante Schettino ha ricordato nelle sue dichiarazioni spontanee in aula. Dopo questo incidente sono cambiate le normative a livello internazionale. 2 computer NAPA con 2 operatori certificati devono essere installati sulla plancia di comando. Questo significa che il supporto NAPA in caso di emergenza un valore l'aveva purtroppo. Alcune mie perplessità sulla gestione dell'emergenza sono state raccolte a livello internazionale. Agli ufficiali è stato richiesto un percorso formativo più approfondito, come avevo più volte sollecitato all'azienda. Ma allora se ci fossero stati tutti questi strumenti, il disastro della Concordia si sarebbe potuto almeno in parte evitare? Di sicuro nelle 70 udienze del processo a lungo sono state scandagliate anche le falle della stessa nave e di sicuro Schettino non è l'unico condannato per quel naufragio, anche se è il principale. Prima di lui infatti altri 5, l'ufficiale in seconda Ciro Ambrosio, il terzo ufficiale Silvia Coronica, il timoniere Jacob Rusli Bin, il responsabile sicurezza di Costa Crociere Roberto Ferrarini e Manrico Gian Pedroni hanno patteggiato praticamente subito. Ci sono state sì altre concause, Schettino non è l'unico responsabile, ammette pure Francesco Verusio, ormai ex procuratore di Grosseto, ma che è l'uomo che ha portato avanti per 3 anni questa inchiesta assai complessa. Che sulla nave ci fossero delle cose che magari non funzionavano a dovere, che certi marinai non avessero le certificazioni che avrebbero dovuto avere. Sono tutte verità che sono state poi trasmesse alla Procura di Genova perché Genova procedesse nei confronti della Costa per quanto riguarda le responsabilità della Costa per quanto riguarda queste mancanze. E quello è ancora aperto come vicenda. Ma che queste mancanze siano diventate causa di morte di qualcuno, noi non ne abbiamo assolutamente nessuna prova. Lui avrebbe dovuto, poco dopo l'urto, dare il segnale di emergenza generale e non l'ha dato. Avrebbe dovuto, schiacciando un semplice pulsante, avvertire i 1200 marinai o comunque personale della nave che comunque c'era una falla. In questo segnale non lo ha dato. Ha dato l'emergenza generale dopo quasi un'ora dell'urto. Tutte queste manchevolezze poi hanno determinato quello che è poi accaduto. Si parla tanto del DGE, del generatore elettricità, sì. Avrebbe fatto funzionare il timone, tanto per dirne una. Ora, il timone di una nave funziona se la nave ha una propulsione. Quindi vuol dire che anche se questo generatore avesse fatto funzionare in quel momento il timone, le cose non sarebbero cambiate? Non sarebbero cambiate. Per ciascun morto noi sappiamo dov'era e come è morto, chi aveva vicino, con chi ha parlato e chi ha, che hanno visto dove è finito il morto. In un mondo tutto sottosopra si cercarono allora i corpi e lì si infilarono i sub. Stiamo facendo ricerche nella parte immersa della nave, accedere, cercare di avanzare in un ammasso di mobili, di sedie, di tende. Ci sono effetti personali, di abbigliamento, valigie, a volte galleggiano, a volte sono affondate. Un'ambientazione surreale, glielo garantisco. In tanti non hanno creduto che quel mondo capovolto fosse solo responsabilità dell'esuberante comandante Schettino. Come abbiamo sentito dallo stesso procuratore, ci sono state delle concause più volte, situazione questa anomala, le stesse parti civili si sono schierate contro la procura sulla linea invece dell'imputato, che cioè non tutto sarebbe stato scandagliato in queste indagini, ma l'hanno fatto solo per ragioni economiche, ipotizza un po' risentito il procuratore Verusio, che si dice sconcertato da questa situazione. Addirittura quando abbiamo sentito il presidente della Costa, che era all'epoca l'ingegner Foschi, certo, lo abbiamo convocato in un ufficio e prima che lui andasse via noi siamo riusciti a mettere una ambientale nella sua autovettura per capire quale eventuale concorso di responsabilità potesse avere avuto anche la sua persona. Questo le dà la misura di quanto noi avevamo a cuore accertare solo e soltanto la verità e che di cosa non ce ne importava assolutamente niente. In realtà, come abbiamo già detto, Costa è stata condannata a risarcire le parti civili insieme a Schettino, un conto di 7 milioni per le parti civili, quelle che non avevano già raggiunto una transazione, i naufraghi, i familiari delle vittime, i passeggeri, compresa Domenica Cemortan, la ballerina che era in plancia col comandante la notte dell'inchino, dell'impatto degli scogli e poi del naufragio. E poi ci sono i risarcimenti anche alle varie istituzioni, dai ministeri a Palazzo Chigi fino all'isola del Giglio, che si è vista riconoscere 300.000 euro, cifra ben diversa però dai 20 milioni chiesti, ed è per questo che dal porto, laddove il cantiere della Concordia è rimasto per almeno 2 anni, ora il sindaco Sergio Ortelli tuona, è solo elemosina con cui non paghiamo nemmeno le spese. Un risultato, quello della sentenza, che riteniamo inaccettabile. Cioè c'è una bella differenza tra 20 milioni e 300.000 euro. 300.000 euro non coprono le spese. Insomma, per voi sono un po' come briciole. Io la chiamerei più elemosina, perché ho detto che l'isola del Giglio vale 10 Moldave. Se quella della Concordia è diventata da subito una grande storia mediatica, è forse anche perché sembrava quasi impossibile, quasi anacronistico che un gigante del mare come quello potesse naufragare. Scena del passato, quella delle navi che affondano. E infatti nel passato più volte è successo. A questo punto allora diamo la linea alle mitiche storiacce con Giorgio Ieranò, professore di greco all'Università di Trento, autore per Sonzogno di libri sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Sosteneva la difesa del comandante Schettino, tutta colpa dell'equipaggio. Ed è esattamente la stessa cosa che disse Ulisse quando la sua nave andò e lui si ritrovò naufrago su una zattera. Colpa dei miei marinai, raccontava, non hanno obbedito ai miei ordini e, mentre dormivo e ormai Itaca era in vista, hanno aperto l'otre in cui erano rinchiusi tutti i venti, dono del dio Eolo, scatenando la furia del mare. Sarà vero anche questo. Di certo Ulisse non faceva gli inchini passando con la trireme a un pelo dagli scogli di Itaca. L'epopea di Ulisse, anzi, ci insegna cosa i greci pensavano veramente del mare. Un elemento infido, pericoloso, misterioso, un luogo di prodigi e di pericoli a cui bisognava accostarsi con rispetto e con sacrale terrore. Il mare erano i mostri, le sirene, Scilla e Cariddi. I greci in origine non avevano neppure una parola per nominarlo. Lo chiamavano Thalassa ed era appunto una parola presa in prestito dagli indigeni che i greci incontrarono scendendo millenni fa dalle steppe del nord nella penisola balcanica. Il mito racconta anche che la prima nave a solcare le onde fu quella con cui l'eroe Giasone andò alla conquista del leggendario Vello d'Oro. La nave Argo, una nave magica dalla prua parlante, si raccontava che solo l'aiuto della dea Atena aveva salvato l'Argo dall'andare a schiantarsi tra due rupi semoventi, le Simplegadi, che stritolavano ogni imbarcazione. La dea, con la sua mano, spinse la nave fuori dalla strettoia, ma forse se al timone invece di Giasone ci fosse stato Schettino non sarebbe bastato neppure l'aiuto dell'Olimpo. In genere questo è lo spazio della segnalazione, quella che arriva da voi ascoltatori. Stavolta permettetemelo, questo sarà lo spazio di un saluto. Il saluto ad un amico che tante volte è stato al di là del vetro, in regia mentre ascoltavate storiacce. Rudy, Fabio Cantadori, che come avete già sentito in questi giorni su Radio 24 se n'è andato troppo presto. Lo voglio salutare però come avrebbe fatto lui, con della musica festosa e sulle mani come avrebbe detto lui. Ciao Rudy, ciao a tutti, a presto.